Era il giorno tanto atteso dalle genti, uno di quei giorni che vorresti non arrivasse mai. Nelle strade le bandiere inneggiavano alla guerra, i bambini scorazzavano ridendo tra la folla. Eppure c'era un uomo che piangeva come un bambino. Per lui le armi erano un modo per morire piano piano. Nella terra di nessuno tutti sanno quando partire, ma nessuno può affermare quando e se potrà tornare. Ti ho lasciato queste note perché a te posso parlare, perché so che puoi capire, leggere oltre queste miserie. Gli alberi l'inverno tristi dal vento sono frustati, ma a primavera germogliano nuovi fiori profumati. Quando ci si accorge del trucco, ormai è troppo tardi. Allora si contano tra i morti i propri padri, i propri figli. Se solo il mondo avesse una migliore idea della vita, forse allora potremmo ambire ad una migliore meta. Eppure c'era un uomo che piangeva come un bambino. Per lui le armi erano un modo per morire troppo lontano. Nella terra di nessuno tutti sanno quando partire, ma nessuno può affermare quando e se potrà tornare. Ti ho lasciato queste note perché a te posso parlare, perché so che puoi capire, leggere oltre queste miserie. Gli alberi l'inverno tristi dal vento sono frustati, ma a primavera ricorda germogliano nuovi fiori profumati.